spacca pietre, sfonda la parete con un solo colpo, abbatto le barriere mentre frana addosso il mondo. Da quando sono nato spacco pietre ed ho imparato a sopportare ogni tocco contro tutti e tutto contro. Spacca pietre, sfonda la parete con un solo colpo, abbatto le barriere mentre frana addosso il mondo. Da quando sono nato spacco pietre ed ho imparato a sopportare ogni tocco contro tutti e tutto contro. Spacco pietre per ridurle in quattro quarti, anni di rabbia compressa, adesso infatti devo urlarti, accumulati eventi infatti uno sull'altro, ora dopo ora, giorno dopo giorno, duro di lavoro tra nervi, fiumi, pelle, risposte, denti stretti, è lo stato delle cose, va letteralmente in pezzi, manda l'aria nei progetti e non t'aspetti più nulla di buono, scrive sulla faccia il perché di come sono, sono un mangiarocce, frantumo quello che attorno, quando scattano le zanne d'acciaio spezzano il collo, in uno schioppo e suona macabro nel tuo finale rapido, lo shock, perché il granito mastico è un blocco. Prenditi pure ciò che rimane della mia vita, che sei un infame, ma c'è chi ti giustifica. Mani lisce come il culo d'un bambino bicide, strisciano sul mio passato e ti stupisci se me l'ero immaginato, ma vedevo oltre, come vedo adesso che sei condannato a morte. Io continuo e spacco pietre mentre reciti la parte che aspettava a me e che non ti compete. Oggi vivo sotto stress come allora e forse per sempre, tu trattato da eroe, porti la gente che non sente che la propria voce, e gli fai eco, ne pagherai il prezzo quando sarà il momento, e sai che prima o poi faremo i conti, se ti dedichiamo un prete perché mangio pietre ucciderò gli stronzi. Spacca pietre, sfonda la parete con un solo colpo, abbatto le barriere mentre frana addosso il mondo. Da quando sono nato spacco pietre, ho imparato a sopportare ogni tocco contro tutti e tutto contro. Spacca pietre, sfonda la parete con un solo colpo, abbatto le barriere mentre frana addosso il mondo. Da quando sono nato spacco pietre, ho imparato a sopportare ogni tocco contro tutti e tutto contro. Spacco pietre, truco in tre i macigni, quando il tuo lago dei cigni inondo col mio oceano di chigni, insegni personaggi indegni in fondo senza ingegno, staccano assegni. Io spacco il legno e rocce lasciando i segni, disegni superiori concepiti da artritici ricchi svampiti che con politici amici fanno progetti banditi noi zitti, rendendo pietre i detriti, spaccando rocce con docce più acide dell'LSD. Ci troviamo qui con punte più grosse del rap, posso la tosse. Io spacco sassi, respiro le polveri grosse, poveri bosche, li chiudo dentro al labirinto come minosse, come di fosse qualcosa di mostruoso in essi, con ruspe li spingo nel fosse, tu compressa li pressi compressi, tra i vostri compromessi i nostri complessi ci sono concessi, ben pochi piaceri e molti sono pesi processi, sospesi irreversibili, e noi siamo eversivi, aggressivi, per questo più punibili, appetibili, nel caso fossimo clienti. Io spacco pietre a male, spacco pure coi miei denti, se ti accontenti già stai fresco, resti tra i perdenti, se dai fendenti mandi chiai a faccia sti potenti, trasformo sabbia in vetro, specchio di sto mondo tetro, rispecchio il metro di giudizio di chi ha un tizio dietro, si chiama Pietro si sa, gli torna indietro, mi chiama spacca pietre, ora io gli spacco il retro. Spacca pietre, sfonda la parete con un solo colpo, abbatto le barriere mentre frana addosso il mondo. Da quando sono nato spacco pietre ed ho imparato a sopportare ogni tocco contro tutti e tutto contro. Spacca pietre, sfonda la parete con un solo colpo, abbatto le barriere mentre frana addosso il mondo. Da quando sono nato spacco pietre ed ho imparato a sopportare ogni tocco contro tutti e tutto contro. Spacco pietre per ridurle in quattro quarti, spacco pietre tronco in tre i macigni. Spacco pietre per ridurle in quattro quarti, spacco pietre tronco in tre i macigni.